insegnarci qualcosa. Cosa farei di quel senso d'onore che ho, se non fossi me stesso? C'è chi è nato sbagliato, c'è chi è anche peggiorato, lo so, i perfetti siete solo voi, non fumate, non bevete. Lo so, perfetti siete solo voi, salutisti e perbenisti. C'è chi è nato ignorato, solo e disorientato. Lo so, perfetti siete solo voi, col sentiero già tracciato. Lo so, perfetti siete solo voi, col futuro assicurato. Vorrei cantare d'amore di cuore, non dire cose reali. Sì. Però preferisco parlare per chi bene o male come me, e forse mi capisce. C'è chi è nato indignato ed è sempre mascherato, lo so, i perfetti siete sempre voi, con il culo ben parato. Lo so, i perfetti siete sempre voi, nelle case di papà. Siete tutti ben riusciti, non rischiate penalmente. Lo so, i perfetti siete solo voi, con le idee sdolcinate. Lo so, perfetti siete solo voi, sovversivi, solo voi. Vorrei osannare, assecondare gli extracomunitari, essere più comprensivo. Sì. Però preferisco preoccuparmi dei poveri fratelli italiani, la questione meridionale irrisolta. C'è chi è nato incazzato, e da sempre lavorato, lo so, i perfetti siete solo voi, tutti intellettuali, lo so, i perfetti siete solo voi, tutti internazionali, tutti interculturali, tutti integrazionisti, lo so, i perfetti siete solo voi, i cattivi solo noi, lo so, i perfetti siete solo voi, imperfetti solo.